as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui al Pane delle Rose, Radio Città Fujiko 103.1. Siamo nella trasmissione degli operai metalmeccanici, oggi più che mai una puntata dedicata a noi, una puntata di quelle che uno, sono quelle che uno non vuole fare. Chi ci conosce sa che noi spesso parliamo di buoni accordi, di lotte, molto spesso purtroppo parliamo anche di stabilimenti che chiudono. E purtroppo oggi ci tocca parlare di uno stabilimento dove lavorano compagni. Chiaro che noi siamo legati a tutti i lavoratori, siamo degli operaisti internazionalisti, però quando toccano dei fratelli, dei compagni che ti sono molto vicini per tante ragioni, questo fa ancora più male. E oggi parleremo della Maniti Marelli di Crevalcore. Non so se tutti sanno, ma dal 2019 la Maniti Marelli non è più italiana, ma appartiene a un fondo americano, si chiama KKR, è stato venduto dall'FCA per 6 miliardi di euro. Già Sergio Marchionne aveva iniziato questo percorso di vendita della Maniti Marelli. Non dimentichiamo che la Maniti Marelli, stiamo parlando non di una fabbrichetta, stiamo parlando di una fabbrica che fatturava 7,9 miliardi, credo, prima di essere venduta nel 2017, aveva 43.000 addetti e 85 unità produttive. E di queste 85 unità produttive, distribuite in 20 paesi, 8 ne aveva solamente in Italia. La più grande è quella di Milano, di Corbetta, e poi c'è Bari e poi tutto il resto delle altre, sono diverse. Dunque stiamo parlando di una multinazionale che è stata venduta a un fondo. Lo stesso fondo che avete letto sui giornali addirittura vuole acquistare Team, insomma, questa cordata di banchieri che stanno facendo i metalmeccanici. Questi banchieri già avevano dichiarato degli esuberi, credo l'anno scorso, circa 400 esuberi in Italia, in cui hanno fatto una serie di incentivi in vari stabilimenti per mandare le persone in prepensionamento per chi se ne voleva andare. Ci aspettavamo una cosa del genere anche in Maniti Marelli, invece a Crevalcore mercoledì 20 hanno dichiarato la chiusura entro fine anno. È stata una doccia ghiacciatissima per noi e per i lavoratori di Crevalcore. Subito sono iniziati i presidi, venerdì c'è stato lo sciopero, io sono andato giovedì a trovarli, ho portato lo striscione dell'azienda in cui lavoro, l'ho attaccato lì insieme ad altri compagni e abbiamo parlato con loro, e lì ho incontrato Mimmo Lisi, un amico, un fratello, ripeto, un compagno, tante lotte in questi anni, e qui abbiamo fatto un'intervista e lui ci ha spiegato un po' quello che è successo, le motivazioni di tutto questo, insomma. Adesso ci sentiamo un bellissimo pezzo nel bestiarare, la crisi, che purtroppo c'è crisi e dunque tutto viene giustificato dalla crisi, soprattutto i profitti dei miliardari come la KKR. Ci sentiamo dopo l'intervista di Mimmo Lisi. A dopo. Mi sa che sta in crisi, mi è venuta la crisi, che mi manda in crisi. Cara bambina alla deriva, siamo all'ultima spiaggia, brucia come la benzina che t'è rimasta nella borraccia. Facciamo un ultimo botto insieme e ce ne andiamo in ferie. Questa vita costa denaro e fatica e non stiamo mai bene. È come una malattia, come il canto delle sirene. Questa voglia di dare il via ad una lunga scia di cherosene. Tanto già brucia tutto qua, la fabbrica, la scuola. Brucia qualcosa anche tu se la TV non ti consola. Cadono due aeroplani su piazza Affari e vanno in ansia che l'economia collassa. Non gli sale più il Nasdaq, inseguono lo spread, ricambiano maggioranza, mettono un'altra bomba in mezzo e terrorizzano un'altra piazza. Troppa confusione, amore, non forza. È il mondo che sta correndo, stiamo andando in retromarcia. Non c'è più nessuno che riesco a guardare in faccia. E rischio d'andare in crisi se la maschera mi si slaccia. La crisi prima non c'è, poi c'è. E se c'è la crisi, spero che tocchi a te, pagala te. La crisi lo sai com'è, io t'aiuterei, ma c'è la crisi. E quando c'è la crisi, comanda lei. E ho bisogno di una risposta, di sapere se nelle persone ha qualche valore la distinzione tra pezzi di merda e gente onesta. Qui nessuno, manco Brillo, può fa la fine de tranquillo. Con lo appico in mezzo ai tormenti e non me senti, manco se strillo. La usi da scudo che rompe ogni mio progetto. Dei tuoi non ne tocca nessuno, invece la crisi a me m'ha rotto il culo. Su di tremi, vuoi stare fermo, invece ti muovi, quasi muori. Ci sono i dottori, banchieri, petrolieri, oppure una faccia che ride, una maschera da pupazzo. Per vent'anni leader della passera, lascerà i nostri figli l'imbarazzo. Prendi un'arma e ammazzi chi vuoi tu in quei palazzi. Calma, mister, di che sei te a pensarla, che dal letto non t'alzi. Io vivo al momento, finché sotto c'è sta il pavimento. Tutto al limite del fallimento, e la notte ne manco so se m'addormento. Mi sveglio e non parlo, un passo non posso farlo. Respiro a fatica e non mangio, la crisi di Gregor Samsa Scarafaggio. La crisi prima non c'è, poi c'è. E se c'è la crisi, spero che tocchi a te, pagala te. La crisi lo sai com'è, io t'aiuterei, ma c'è la crisi. E quando c'è la crisi, comanda lei. La crisi gradisce lo stato di polizia, che senza bussare sfonda la porta ed entra in casa mia. Col tempo che non aspetta, la macchia che non va via, le manganellate che hai preso, il corpo ha cambiato fisionomia. E perdi la fantasia a forza di frustrazioni che chiudi te stesso dentro, pure quando stai de fuori. Con l'animale in gabbia e l'occhio all'estratto conto, la mano sulle mutande che non t'hanno ancora tolto. Quello che hai fatto, niente sarà più come prima. Preparati il salvagente che come niente l'onda arriva. La crisi prima non c'è, poi c'è. E se c'è la crisi, spero che tocchi a te, pagala te. La crisi lo sai com'è, io t'aiuterei, ma c'è la crisi. E quando c'è la crisi, comanda lei. La crisi prima non c'è, poi c'è. E se c'è la crisi, spero che tocchi a te, pagala te. La crisi lo sai com'è, io t'aiuterei, ma c'è la crisi. E quando c'è la crisi, comanda lei. Allora, manneggia la miseria, proprio il caso di dirlo, Mimmo. Siamo qua con Mimmo Lisi, delegato della FIOM, della Magni di Marelli. Ti ricordi? Abbiamo fatto già diverse interviste con te, qui parlavamo della Magni di Marelli, abbiamo fatto interviste positive e qualcuna negativa in passato. Eravamo contenti erano orientati nel contratto di Federmeccanica. E qui, sorpresa, all'improvviso, notizia shock. Punto in bianco, vi hanno detto che chiudono qualche Valcore. Siamo qui in presidio, sono un po' di giorni che è iniziato il presidio. Domani ci sarà uno sciopero importante, che purtroppo non ci sarò, che sono a Roma, non riuscirò a esserci. Comunque penso ci sarà una bellissima iniziativa, un bellissimo sciopero. Purtroppo ci saranno altre iniziative, molto probabilmente, perché la situazione è molto delicata. Allora, noi vogliamo che tu ci racconti qui al Pane delle Rose come sono andati i fatti e insomma come si è evoluta la situazione. Niente, nel ringraziare la redazione per avermi dato l'opportunità di portare la voce dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento di Cavalcore, posso solamente dire che le sfighe ce le abbiamo tutte noi. Questo è vero. Perché dopo 12 anni di lotta dura riusciamo a rientrare nel sognato contratto nazionale e in pochi mesi il sogno svanisce, perché l'altro giorno l'azienda ci ha comunicato che entro fine anno dismetterà il sito di Crevalcore, che conta 229 lavoratori, quindi 229 famiglie. Cosa vi hanno detto? Cioè, la spiegazione, le motivazioni? La spiegazione in parte illogica, nel senso che non siamo mai stati uno stabilimento brillante. Voi cosa producete qui? Perché produciamo due linee business, una di plastica e una di alluminio. Una che ha un valore aggiunto, che è quello plastico, e quindi facciamo componenti di collettori, aria, benzina, diesel, metano, GPL, e corpi farfallati in alluminio. È normale che in alluminio la vendita del pezzo stesso è in sé inferiore a quello della plastica, e quindi lì, visto anche gli ultimi anni in cui ci sono stati degli aumenti abbastanza importanti per quanto riguarda l'energia, essendo un prodotto energivoro, i guadagni sono diminuiti, e quindi sull'alluminio avevamo delle problematiche. Il problema è, quindi ci aspettavamo eventualmente un piccolo esubero, che era stato anche quantificato nel prossimo anno in 24 persone. Devo dire la verità, uso anche una parola non consona al mio stile: il presidente della linea business ha fatto la supercazzola, dove non ha capito neanche lui quello che ci diceva, per dirci: chiude lo stabilimento, l'alluminio verrà esternalizzato, mentre la plastica, dove non abbiamo mai avuto problemi, anzi in questi momenti e nei mesi scorsi avevamo fatto anche un aumento di produzione, la produzione cessa e viene spostata tutta nello stabilimento di Bari. Questo è incredibile. Perché alla fine è la motivazione di questo, che viene spostato a Bari? Perché a detta loro lo stabilimento ha delle perdite enormi. In verità... Ma quale? Bologna o Bari? No, parliamo di Crevalcore. Ah, di Crevalcore. Dunque, sì, perché la motivazione è questa qui, che noi perdiamo dei soldi che l'abbiamo scoperto qualche mese fa. Perché fino all'anno scorso ci hanno raccontato che il nostro stabilimento era o leggermente positivo o in pari o poco sotto, quindi in un equilibrio finanziario. Oggi ci dicono che il 20 perdevamo 4 milioni, il 21 perdevamo 4 milioni e mezzo, il 22 5, e quest'anno, siccome giochiamo a bingo, sono 6, che sono dei numeri puramente inventati. Certo, infatti la FIOM penso che farà una valutazione di tutto questo, no? Guarderà tutti i conti su questo, immagino. Se devo essere sincero, già ci abbiamo guardato. Ah, okay. Il problema è che c'è la scatola cinese, perché il più e il meno è una somma di tutti gli stabilimenti, e quindi abbiamo già capito che ci sono delle problematiche, ma quelle problematiche non possono essere esposte in evidenza, perché ci sono i conti di tutti, i guadagni di tutti e le perdite di tutti. Ok, dunque si fa fatica a capire se effettivamente Crevalcore ha queste perdite. Comunque sicuramente loro stanno cercando di razionalizzare, perché questo è il loro obiettivo, chiudere gli stabilimenti per razionalizzare. A Bari, se non mi sbaglio, c'erano degli esuberi, e dunque lì dovevano sacrificare uno dei due, hanno sacrificato il più piccolo alla fine. Allora, l'analisi l'hai fatta già tu. Per quanto mi riguarda, questa è una pura razionalizzazione dei costi per questioni finanziarie, aziendali, certo. È normale che lo stabilimento da toccare, è più facile toccare quello piccolo, perché voglio ricordare che lo stabilimento di Bari ha una capienza di 1000 dipendenti. Cioè, gigantesco. E ha anche una struttura diversa. Lì è impiantato anche l'elettrico, quindi il futuro. mentre a Crevalcore, cosa che noi parliamo da 5 anni e denunciamo da 5 anni, gli investimenti del futuro, quindi gli investimenti per l'innovazione sulla green technology, non sono mai avvenuti. Comunque Bari, ho visto il comunicato che Ciro ha fatto, Bari sciopera, se Crevalcore piange Bari non ride, l'ha detto chiaramente. Domani ci incontreremo, penso, con i compagni di Bari, sono in sciopero, questo io penso sia importante. Posso dire tranquillamente questo, i lavoratori di Bari non c'entrano niente, certo, con i lavoratori di Crevalcore, quindi bisogna mettere un punto fermo a tutto quello che è avvenuto o avverrà, perché chi ha deciso è solo ed esclusivamente la proprietà, chi subisce o chi ne gode non c'entra niente, perché ci sono arrivati sicuramente solidarietà, ma una solidarietà che dispiaceva ai lavoratori di Bari, perché in questi anni abbiamo lavorato a stretto contatto, ci siamo scambiati le informazioni e ci hanno sostenuto sempre in tutti i momenti. Quindi la responsabilità è solo, certo, di una, della proprietà, che si chiama KKR. Certo, sono loro i responsabili, è a loro che state facendo la battaglia, perché oggi siete in presidio e questo presidio, insomma, come continuerete questa battaglia? Domani ci sarà lo sciopero, poi? Allora, scioperi articolati settimana prossima? La battaglia in questi giorni poteva avere solo una risposta, presidio H24 fino a domenica, lunedì proveremo la febbre all'azienda, entreremo a lavoro, ma a turno ci saranno i lavoratori all'esterno, quindi si farà sciopero a scacchiera. È normale dire questo, dall'azienda non esce neanche uno spillo, può entrare quello che vuole, ma non uscirà niente. Questa è la cosa più importante. Oggi ho avuto Bonaccini, parliamo un po' di, anche della questione politica, oggi cosa vi ha detto? Ma posso solamente dire che siamo anche lusingati della visita, perché ha speso parole pesanti che per il tipo di persona che è sono sicuro che manterrà, perché l'Emilia è fatta di persone serie e il governatore per quanto ci riguarda è una persona seria. Io sono ottimista come lo sei tu, però io penso che la vera battaglia la farete voi i lavoratori e ho fiducia, io vi ho visto tante volte in lotta e questa volta io penso che la firma ha dimostrato che se i lavoratori ci sono, se le fabbriche qua, c'è un sacco di manifesti, ci siamo anche noi, la solidarietà è l'arma migliore, la vostra caparbietà, come è successo in altre situazioni, di continuare la battaglia, abbiamo visto altre fabbriche che hanno cercato di chiudere, però alla fine i lavoratori non hanno mollato e non mollerete nemmeno voi. Posso solamente dire una cosa, resisteremo un minuto in più dall'azienda. E noi ne siamo sicuri, e noi saremo con voi. Grazie Mimmo. Grazie per la solidarietà che ci avete portato e che ci hanno portato tutti gli stabilimenti della zona. Okay. Grazie. Ci vediamo, alla prossima. Nelle piazze, nelle fabbriche, vite spezzate dai rumori delle macchine, lottano uniti gli operai e le operaie, lotta di classe, mentre il padrone infame gonfia bene le sue tasche. Lo Stato è complice da sempre per fermare questo scempio che va avanti già da tempo, non ha fatto niente, sta dalla parte dei potenti con le mani in pasta. Scendiamo in strada tutti uniti, se a gridare basta, basta un'email per mandare a casa tutti quanti, sottopagati in mezzo ai campi con i visi sfatti. Per le multinazionali siamo i nuovi schiavi, paghiamo zero, siamo numeri immatricolati. Siamo i figli della nuova resistenza, costi quel che costi fino all'ultima avvertenza. Pronti a insorgere, con la rabbia pronta a esplodere, mentre il vento soffia forte. Ci terrorizzano, delocalizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare il minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, delocalizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Recrudescenza costante del capitale, la coscienza che si è espande tra le fabbriche operaie là. Lotta in vita nella piana, colgo la sua essenza, costi quel che costi fino all'ultima vertenza. Sei solo un numero, che importa tu chi cazzo sei? Di punto in bianco verrei licenziato da un'email. Per i miei figli vivo dentro il posto di lavoro, per insegnarli cosa sia la dignità di un uomo. Si canta e si resiste, un altro turno finisce. Dentro il tempo si è fermato come a Chernobyl, cadendo poi si vince, quanto ti inorgoglisce sapere che fino alla fine tu rimarrai qui. È la rivolta dei dannati di una notte eterna, perché i padroni giocano con la tua sofferenza. L'11 agosto come il giorno della ricorrenza, classe operaia insorge e suona la tua martinella. Ci terrorizzano, te localizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, te localizzano, ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo, insorgiamo dando vita a un fronte unico. Abbiamo appena sentito una canzone per me stupenda di Tenore, un rapper di Firenze dedicato alla GKN, chiaramente un'azienda che ha lottato e sta lottando e adesso si sta riconvertendo nel green, finalmente, le notizie che io ho dei compagni, insomma, è in fase di riconversione, finalmente. Se vi ricordate la campagna che abbiamo fatto di crowdfunding, insomma, si è andata abbastanza bene e adesso stanno facendo una serie di cose per quanto riguarda la reindustrializzazione del sito, producendo cose green. Torniamo a noi, avete sentito prima del pezzo l'intervista a Mimmo Lisi, delegato della FIOM della Media Marea di Via Valcore, che ci ha spiegato quello che è successo, quello che stanno facendo, quello che succederà in questa settimana. Venerdì c'è stato uno sciopero, io ero a Roma all'Assemblea Nazionale Dirigenti Operai della FIOM. Lì ho potuto parlare con i compagni, ho incontrato quelli di Bari, della Magneti Marelli, e mi hanno detto che loro hanno scioperato anche loro venerdì, e in tutti gli stabilimenti c'è stato uno sciopero. È andato molto bene lo sciopero e non era scontato. Credo che sia stato lo sciopero di tutto il gruppo di Magneti Marelli più riuscito negli ultimi anni. Questo ha fatto sì che venerdì, durante lo sciopero di Via Valcore, mentre i lavoratori erano lì fuori a scioperare, è arrivata la notizia che la KKR sospende licenziamenti, la procedura di licenziamenti fino all'incontro del 3 ottobre. Questa era una delle richieste della FIOM, dicendo, cioè, dovete sospendere i licenziamenti perché se vogliamo aprire un tavolo di trattative i licenziamenti devono essere sospesi. Cioè, fare un tavolo con licenziamenti in atto è come avere una pistola puntata in testa. Chiaramente non si ragiona quel momento lì, e infatti i lavoratori sono subito scesi davanti ai cancelli e hanno bloccato tutto già da subito da mercoledì. Ora, quello che io posso dire, avete sentito anche Mimmo Lisi, per chi non è riuscito ad ascoltare la trasmissione troverete sempre il podcast nel Pane delle Rose, da cercare sulla pagina Facebook subito, cioè chiaramente dopo andate in ordine, noi il podcast li mettiamo sempre due settimane dopo che va in onda la trasmissione, però comunque avete tutto il tempo di ascoltare. Mimmo Lisi ha spiegato benissimo la situazione. È una vera e propria razionalizzazione. Qua stiamo parlando di una multinazionale finanziaria di banchieri che stanno facendo della speculazione finanziaria, fanno delle manovre, acquistano a grandi aziende. Non dimentichiamo che loro avevano acquistato la Calsonic, che era un'azienda giapponese che produceva componenti per auto, hanno creato questo mega gruppo Magneti Marelli Calsonic, che è diventato il settimo gruppo di componenti per auto del mondo, e quando hanno fatto l'acquisizione hanno guadagnato tantissimo per un anno intero di azioni. C'è stato il titolo che è saltato alle stelle. Soldi là, stanno facendo profitti, acquistano, comprano, vendono. È chiaro che hanno fatto una botta di conti e hanno visto, insomma, 8 stabilimenti, secondo loro sono troppi. Infatti la paura più grossa che abbiamo è che non è uno dei primi che verrà chiuso. Molto probabilmente loro stanno razionalizzando gli stabilimenti, però le famiglie ci vanno di mezzo, a loro non interessa niente. È la classica espressione tipica del capitalismo spietato che asfalta tutti. In Africa fa milioni di morti, nel mondo scatena le guerre, e in Italia, bene che ti va, ti mette in mezzo alla strada migliaia di famiglie. È il minimo per queste multinazionali. Per loro è normalissimo, cioè, chiudere gli stabilimenti, licenziare 229 persone, che per noi è un trauma, il territorio, ma per loro, secondo me, una multinazionale finanziaria come la KKR si chiederanno anche come mai noi stiamo protestando, no? Visto che comunque sia le produzioni le tengono in Italia, cioè le mandano a Bari, che in realtà sono anche molto furbi, non sposteranno i macchinari, ma i macchinari già ce li hanno acquistati uguali, hanno anche utilizzato le migliorie studiate in Medi Marelli per produrre dei macchinari ancora migliori, che sposteranno a Bari e continueranno a produrre quello che producono anche ancora a Bari, cioè molto semplicemente. Ci sono tantissimi casi di aziende che fanno così. La sfortuna è quando purtroppo le aziende, un po' c'è la questione della crisi, perché a Bari ci sono gli esuberi, soprattutto perché gli lavoratori di Crevalcore non possono spostarsi a Bari. Il problema non è uno prossimo spostamento Bologna-Imola, potrebbe anche andare, ma il problema è che qui stiamo parlando di centinaia e centinaia di chilometri in più di una situazione in cui c'è una crisi in atto, cioè ci sono degli esuberi a Bari. Insomma, questa è la situazione. Io ho molta fiducia, così come ho detto nell'intervista, per questi lavoratori, e la FIOM non mollerà, perché è un punto di riferimento di Marelli per tutti. Parliamo del settore di automotive, parliamo della questione della transizione, e se chiude Maniti Marelli così, senza colpo ferire, potrebbe creare un effetto a catena devastante per tutta la metalmeccanica, soprattutto per l'automotive. E c'è un interesse a livello nazionale da parte della FIOM, e c'è una forte combattività di questi lavoratori che hanno sempre lottato e sono molto sindacalizzati. Dunque ne vedremo delle belle, vedremo delle lotte importanti, e noi saremo a fianco di questi lavoratori fino alla fine e resisteremo un minuto più del padrone, così come ha detto Mimmo Lisi. Alla prossima puntata. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.